and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. E dai. Adesso, oh, questa bravo, riga bravo Kappa, è sì. Tua, sì, e questa è mia. Aspetta, ok, è tua. Allora, uno, due, tre. Va bene, non pensate male, bambini all'ascolto, perché stiamo assumendo sale? Semplicemente cioccolata. Cioccolata. È il nuovo modo di assumere non cioccolata. Non so, cioccolata, però vedi che parliamo tutti in fretta, perché sì. Insieme alla cioccolata c'è del ginger e c'è anche la menta. Eh sì, sono tutte cose corroboranti. È un nuovo shooter, sì, che ha inventato un cioccolatiere francese, anzi belga, si chiama Dominique Person. Ormai è diventato di moda la cioccolata sniffarla invece che mangiarla, sì, hai capito? Perché in certi ambienti la gente è abituata a sniffare cocaina. Sì, se ti fai vedere che mangi bene il cioccolato e che ingrassi, non va bene, quindi è meglio far credere che si sniffi cocaina, in realtà quando si fa una bella sniffata di cioccolato. Beh, questo, secondo me questa qui è una tua teoria, no? Perché per esempio Mick Jagger è un grande fan della cioccolata da sniffare, sì, chiediti perché. Ma cosa dici? Sua moglie Jerry Hall ha detto che ha completamente abbandonato la dipendenza dalle droghe. Grazie al cioccolato. Forse, gli è rimasta quella dal sesso, ma insomma. Vabbè. D'altra parte non puoi mica sempre avere tutto quello che vuoi, caro Mick. Quello che vuoi. Hab nunach, filosofai, juristerai. Ma cosa stai dicendo, juristerai? No, sto leggendo ad alta voce. E cosa stai Faust, ah, il Goethe. Mamma mia, come bisogna mai leggere ad alta voce, perché così favorisci la memorizzazione, capito? Vabbè, questo si sa, no? Leggere no, ad alta voce. Si sa, ma non si sa che questo favorisce il fatto che la tua memoria breve si trasferisca nella memoria di lungo periodo, che è la cosa che mantiene giovane. Già non mi ricordo come abbiamo iniziato questo discorso. Neanch'io. Di cosa dobbiamo parlare? Del fatto di leggere. I bambini non leggono. Guarda, vabbè, che gliene frega i bambini di leggere dei libri. Vabbè, adesso sono in ricreazione. Cosa vuoi che si mettano a leggere? Forza. Però leggono anche, no? In classe li fanno leggere. Guarda, chiediamo quello lì, è il solito. Bambino Albertuccio. Tu leggi, bambino Alberto? Certo. Ecco, bene. E che scrittori ti piacciono? A me piace Moccia. Moccia. Beh. All'asilo, in effetti, Moccia. Vabbè, il problema è che Moccia non è che viene letto solo all'asilo, lo leggono anche gli adulti, ahimè. Beh, ma almeno sono trame facili da capire, no? Vabbè, senz'altro, sì. Di solito, anzi, c'è sempre una che è brava a scuola e deve sempre fare i compiti. E poi c'è un suo compagno di classe, ripetente, che invece sta sempre in giro a fare le penne in motorino. Vabbè, ma scusa Alberto, questa ti sembra la trama di un libro, ma per carità, dai, le più penne in motorino. Moccia, insomma, guardate che non è solo una questione di compiti di penne, c'è anche uno spaccato della vita di noi giovani, è un ritratto generazionale. Cosa posso ridere? Ha, ha, ha, no. Mi viene da ridere. Cosa c'è? Della vita generazionale. Spaccato e spaccato. C'è poco da ridere. Lo dice anche la mia compagna di banco. Chi? È la bambina attrice Flavia Roberto. Sentite un po'. Secondo me Federico Moccia rappresenta questa generazione. Ma come parla questa bambina attrice? Ma soprattutto Flavia? Chi è? Infatti. È un'attrice, eh? Ha fatto la scuola di edizione. Sì, per parlare come i personaggi di Moccia. Ha fatto la scuola post. Cosa c'è in questi libri se, come dice l'attrice, Federico Moccia rappresenta questa generazione? Cosa c'è dentro qua? C'è Facebook? C'è Twitter? Cosa c'è? C'è anoressia, bulimia? Vabbè, vai. Ma c'è tutto! Ecco. Ci sono tutti i problemi di una generazione che, tra l'altro, è troppo spesso accusata di essere una massa di rincoglioniti. Come dice il bambino Pino Scotto, ex dei Vanadium. Le nuove generazioni sono già abbastanza rincoglionite. Ci mancavano anche i suoi libri e i suoi film. Vabbè, ma lui è un ex cantante heavy metal. Cosa vuoi che pensi di queste cose? Però vabbè, leggendo Moccia invece il rincoglionimento cessa, secondo te, insomma. Potrebbe essere. Leggere allena il cervello. Vabbè, ma anche leggere Moccia, non ho capito. Poi, scusa, bambino Albisola. Ma Albisola? Sì. È in Liguria. Albisola, vicino. Alberto, allora? Albisola. Vabbè. Albisola. All'asilo, scusa, non hai mica di sti problemi. Bulimia, insomma, dai. Voi siete troppo piccoli per leggere le storie di Moccia. Lascia stare, troppo, non va bene. Abbiamo detto che va bene, ma non va bene. No, ma oggi si cresce molto più fretta, Ma, in apparenza. Certo, in apparenza. Quindi hanno i bambini dell'asilo? Piace un casino leggere queste storie d'amore, di Lucchetti, di lettere anonime. Vabbè, Lucchetti, lettere anonime sembra più un libro, che ne so, su un sequestro di persona che un sì. libro d'amore. Scusate. Ma no, i Lucchetti di Ponte Milvio, no? Ah. Ma non lo sapete? Sì, vabbè, certo, lo sappiamo, certo. Lo sappiamo. Per chi ci hai preso, lo sappiamo. Ah, vabbè. E poi ci sono i divanetti. Ma come i divanetti? Questa non l'ho mai sentita dire. I divanetti di Ponte Milvio? Ma no, i divanetti della discoteca della domenica pomeriggio, no? Una volta, Drago, c'era Il tempo delle mele, però era un film per bambini, rimaneva lì. Adesso c'è Moccia con i Lucchetti, scrive dei romanzi, dice le stesse cose del Tempo delle mele. Solo che il problema è che li leggono gli stessi questi libri, gli stessi che avevano 14 anni al Tempo delle mele. Questo sì, è il problema. Ma non c'erano, capito? I Lucchetti, no, però, quello nel Tempo delle mele, no. C'erano dei gran limonate. Però per la prima volta sono d'accordo con te. Cioè, bambino Bergamotto, siamo 2-1. Ma chi è il bambino Bergamotto? Ma sei tu, Bergamotto, no? Alberto, Bergamotto. Bergamotto! Vabbè, dai, allora, il bambino Albertino legge i libri di Moccia ad alta voce per tenere giovane la mente, anche se leggendo Moccia rischia di rimanere sempre giovane, ma di quell'età sbagliata, cioè sì. quella dei motorini, dei compiti in classe, quelle robe lì, insomma, quindi Alberto, per carità, eh? Scusa se non sono figo a leggere robe intellettuali. Ma dai, adesso non cominciamo con la demonizzazione dell'intellettuale, no, dai, è già così dappertutto, ormai uno si deve vergognare se ha dei gusti un po' raffinati. Come noi due. Se no lo accusano di snobismo. Esatto. Vuoi continuare a perdere le elezioni? Allora continua così. Ma quali elezioni? Ma cosa dici? No, perché voi a forza di fare i fighetti, le elezioni le vincete fra 40 anni, ma, eh? Vabbè, ma ecco, ecco, è arrivato Tito. Almeno Bertuccia, vai sempre fuori tema. Accidenti a te, vabbè, quali elezioni? Allora, ragazzi, la ricreazione è finita. Lasciamo il bambino Albume a leggersi il suo Moccia. No, Albume no, eh? Albume è roba tutta viscida. Bene l'albume. Roba di placenta. Moccio. Ma che Moccio? Moccio è un poeta, vabbè. Sentite un po' qua. Calarmi nei panni di una quattordicenne, quindi una ragazza, con tutto quello che è il suo cammino, la scoperta del corpo, la scoperta dell'amore, i primi baci dati magari solo perché le altre avevano dato il bacio, e poi invece improvvisamente il bacio importante. Quello è stato, secondo me, è stata una prova molto difficile in questo, nel senso di riuscire a raccontare attraverso gli occhi e le emozioni di una ragazza. Il richiamino di Kid Factor. Oh, richiamino oggi ci sta, parlando di cocaina, di cioccolato da sniffare, il richiamino è perfetto. Richiamino di Kid Factor per dire che questa settimana le canzoni in concorso erano Pippi Calzelunghe per Seba. Sì, è inutile che parti da lì, perché invece la più importante è quella di Dini, che ha fatto Scina is Punk Rock. Va bene, allora, un richiamino anche di ascolto delle canzoni. Forza, Dini! Scina is Punk Rocker, bellissimo, bellissimo. Ma smettila! Valanghe di voti per Dini, votate Dini! Ma senti che roba! Dai, è finito? Richiamino deve essere corto. Mandate i vostri voti per Dini a chiedoasilo@radio24.it. Oppure potete anche votare, accettiamo i voti anche sulla pagina Facebook dell'Istituto Barlume. Potete mandare un messaggio privato all'Istituto Barlume oppure scrivere sulla nostra bacheca e dire per chi votate. Adesso però è il momento di far ascoltare Seba con la sua Pippi Calzelunghe dirompente. Vai Seba! Stai calmo, accelera, bellissimo, è hardcore. Non hai più l'età, no? Sentiamo invece cosa dice il nostro giudice ufficiale dell'esibizione di Seba e di Dini di questa settimana, Morgan. Sono profondamente diversi e sono arrivati allo stesso risultato, quindi hanno fatto percorsi diametralmente opposti per arrivare il chissà cosa c'è dentro in questo delta. Vabbè, secondo Morgan in pratica è una specie di pareggio questo. Sì, in realtà i voti sono sempre a favore di Seba. Ma vediamo. Quindi se volete far recuperare Dini, votate Dini, votate ma Dini. Se invece amate la bella musica, votate Seba. Votate Dini comunque. Ah, chiedo asilo a radio24.it oppure sulla pagina Facebook dell'Istituto Barlumen. Votate Dini. Votate Seba. Torniamo lunedì e mandate il cioccolato in polvere a chiedoasilo@radio24.it.